24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Evasione di sopravvivenza, perché in Italia, senza voler strizzare l'occhio a nessuno, senza ambiguità sulla necessità di contrastare l'evasione, però certamente non è solo una, non è prevalentemente una questione di carattere morale, come dire. Ci sono ragioni profonde, strutturali, che spingono tanti soggetti economici a comportamenti di cui farebbero volentieri a meno. Eccolo qui il vice ministro all'economia Stefano Fassina, che così in un eloquio un po' incerto dice comunque: esiste un'evasione di sopravvivenza, apriti cielo, cosa succede? Il dibattito a sinistra, Fassina subito bollato come colui che ha fatto un madornale errore politico, il PDL che dice Fassina benvenuto tra noi, la Lega che dice Fassina bravo, finalmente l'hai ammesso che esiste un'evasione di sopravvivenza. Vabbè, sono le 6:30 minuti, ben trovati, insomma quella roba lì, chi è? Sì, non c'è la contraffine, ah. Milan, sei proprio un coglione, ma è possibile che sei un pieva così, lavori in radio, e il mondo va così, vabbè, pazienza. Tranquilli, è l'ultimo giorno, si tranquillizzi caro ascoltatore, oggi è l'ultimo giorno e poi si va in vacanza e per l'ultimo giorno non potevo non chiamarvi, Vincino, che saluto, il grande Vincenzo Gallo, buongiorno Vincino, eccoci qua. Dove, che fa? Qua, eccomi. Eccoti, oggi si va in vacanza, si va in vacanza. Vacanza, oggi è l'ultimo giorno. Poi assolutamente, non... ma un saluto anche a Fassina, al nuovo Togliatti che aspettavamo da tanto. Fassina, veramente, va. Uno serio per un governo di sinistra, però che sa, che dice la verità, che dice le cose giuste. Il governo del finalmente. Fare, finalmente, aspettato. Da 2 anni mi sono adocchiato Fassina, sono stato il primo a disegnarlo, guarda, sul male 2 anni e passa fa. 2 anni e passa fa. Aveva la faccia con quel ciuffetto delizioso davanti, guarda, non, è serio con il ciuffetto. Ha atteso, ha atteso proprio il nostro ultimo giorno di vacanze per svelare il suo. Fassina ha detto c'è un'evasione di sopravvivenza. Vincino, ti voglio presentare una new entry nel nostro Parlamento a quest'ora, sai che è un direttore di un giornale. Fassina, direttore di un giornale. Sei pronto? Sì. Che giornale pensi di trovarti? Il Resto del Carlino. No. Ti presento La Gazzetta di Parma. No. Ti presento Aurora Lussana, direttore della Padania. Buongiorno, direttore. Buongiorno a te, buongiorno a un grandissimo artista in collegamento stamattina, che mi onoro di conoscere solo telefonicamente grazie a Radio 24. Dove sei, Aurora? So che hai fatto una nottata di feste leghiste, queste cose qui. Vinci? Ci si diverte anche in Lega, non faremo le cene eleganti, non faremo tanti festini, ma facciamo le feste. Dove? Feste popolari. Dove? Adesso sono all'imbocco della Valseriana, zona industriale di Torre Boldone, detta anche Tor Buldù. Stiamo portando un po' di approvvigionamenti, viveri, diciamo che in questa fase stiamo consegnando un po' di brioche a quelli che hanno fatto la notte qui alla festa. No, i viveri, gli approvvigionamenti, pensavo ci fosse stato un terremoto in Valseriana. Hanno passato la notte di corvée, perché qui le tensostrutture di notte dobbiamo un po' in qualche modo controllarle, e poveri gli portiamo un po' di brioche, pane e salame. Fanno la guardia, Vincino, capisci? Fanno la guardia alle tensostrutture. Vabbè, allora, colazione col salame. Colazione col salame è bellissima, certo. Colazione pane e salame. Allora apriamo ufficialmente il nostro Parlamento. Apre il Parlamento, che in realtà è in seduta continua, continua. Io non lo voglio il caffè della ministra. Anche questo. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzere col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Ecco, ultimo caffè da Nicole Minetti anche. anche oggi. Qui Aurora Lussana offre il caffè Nicol Minetti, come si è sentito, a tutti quanti. Con la grappa per tutti. Con la grappa, ovviamente. Prodotti tipici del territorio, devo sostenere l'enogastronomia del territorio. Vincino, pane, salame. Pane, salame e grappa. Ma cosa c'è di meglio di colazione? Pane, salame e grappa. Poi dopo. Certo. Allora, la situazione è questa: la camera si lavora giorno e notte. Giorno e notte, si lavorerà anche di domenica e forse slitteranno le ferie. C'è il colpo di Stato, questa è la cosa. Che vuol dire il colpo di Stato? Perché Grillo ha detto che stiamo facendo, dobbiamo fare il colpo di Stato d'agosto. Per questo loro, cioè, doveva trovare una giustificazione a questa cosa assurda di questi poveretti ragazzi per due giorni e mezzo là senza dormire, con i bagni, vedete come sono ridotti a Montecitorio, uno schifo totale, guarda. Tutta una, madonna, è una cosa, guarda, una puzza che c'è. E questi che continuano a parlare non sapendo cosa, a un certo punto si inventa che c'è il colpo di Stato, allora fanno tutta questa cosa per fanno il filibustering. Sì, 30 anni fa c'era un colpo di Stato ogni estate, ogni 3 secondi. Quindi cioè, quando Andreotti occupare. Andava in vacanza si organizzavano colpi di Stato, sempre. Vabbè, ma la questione prima della Camera che lavora, io vorrei parlare di questa cosa. Allora, Stefano Fassina, cosa ha detto? L'evasione di necessità. E Aurora Lussana, voi avete esultato anche della Lega. Bravo Fassina, ma com'è bravo Fassina? Uno di noi, dai, uno da invitare alle feste della Lega. No, vabbè, è emerso un po' il suo inconscio, ci sta, va bene, meno male. Si è un po' liberato dalle sovrastrutture di partito e è emersa la dimensione più autentica. Ma sai cosa dice proprio oggi a Repubblica in un'intervista a Fassina? Gli chiedono, la Lega esulta con lei, ma figuriamoci, risponde Fassina, proprio la Lega che col rientro di capitali inventato da Tremonti e Berlusconi ha usato come scudi umani i contribuenti minimi che in difficoltà... Chi è in difficoltà per lasciare indisturbati gli evasori patologici? Insomma, dice, ma adesso la Lega non mi tiri tra le sue. Mamma mia, sarà che sono fortunata, sono nata povera, non ho mai dovuto occuparmi di portare capitali all'estero, anche se ormai ho il fidanzato vicino alla Svizzera e farei anche in fretta, cioè trasportare qualcosa al di là della frontiera. Però non lo so, io sono qui con gente, c'è qua l'Alberto che è laureato in produzione animale, anche lui non c'ha soldi da portare all'estero, c'è un altro mio amico che comincia adesso il turno, infatti è dispiaciuto che non può sentire la trasmissione di Radio 24, tutta gente che lavora, non lo so, io probabilmente conosco quella gente qui, gente che lavora, fa fatica, non porta i capitali all'estero, difendiamo quella gente lì, dai, deve avere un po' di coraggio. Ma un po' di coraggio l'ha avuto, no? Vincino, l'ha avuto il coraggio? Assolutamente, l'ha avuto, e lei è fortunata essere nata povera, perché tu ti immagini essere nato ricco e avere un Ligresti come capofamiglia, che ti intessa la società, via, tutta piena di debiti, di imbrogli, di cose, e ti trovi in galera per essere sola figlia di Ligresti. Adesso tira in ballo Ligresti, ma che c'entra Ligresti? La povera Giosellina che dice, faceva tutto papà, diceva fai questo, fai quello, e lei sono in sette tutti in galera, e ha conosciuto la verità dell'Italia. Tra l'altro una povera per la prima volta, ha conosciuto con una povera, dice l'aiuterò appena esco, fatela uscire al più presto, questa che aiuta tutti. No, ma tra l'altro Stefano Fassina, oggi il Corriere della Sera, pagina 3, racconta, ma in realtà ha detto quello che aveva già scritto una volta sull'Unità un anno e mezzo fa, una volta un'intervista al Foglio, cioè hanno ritrovato alcune dichiarazioni di Fassina in cui ha detto sempre le stesse cose, cioè ci sono persone, cioè bisogna distinguere tra evasore e evasore, quello che si fa lo yacht e nulla tenente ufficialmente, quello che invece l'artigiano, l'imprenditore che si arrabatta, lavora 15 ore al giorno e poi non ce la fa, cioè è quello l'evasore di necessità per Fassina, però apriti cielo, no? Vincino, apriti cielo. È l'unico seriamente anti-Renzi che ci potrebbe essere, io ho paura per Renzi per questo, perché Fassina sarebbe l'unico. Però già non si sopportano, Esattamente, e non è fighetto. È partita la disfida dei fighetti, Aurora Lussana, adesso Civati dice al Corriere, io fighetto e Letta è un prepotente. Avete visto come parla? Ha dichiarato, a me piace l'idea di una mobilitazione cognitiva alla Barca, vuole un partito deliberante alla Bettini. Ma scusa, ma uno che parla così come può pensare di non essere fighetta? Civati. Oh, dai. Sì. È fighe, è un po' fighetta, Civati. Poi Brianzolo. Per un bergamasco il Brianzolo vincino cioè è peggio di fighetta, è Brianzolo. Cioè, guarda non che Alessandro direttore, c'è Alessandro Longoni in redazione di là del vetro che è Brianzolo e mi fa No, vabbè. Io ho origini meticce perché ho la mamma della Val Brembana e il papà della Val Seriana, quindi già di mio sono un po' meticcia e poi mi sono anche fidanzata con un Brianzolo. Sì, vabbè, comunque, secondo me Fassina, sai da chi ha preso ispirazione ieri? Da chi? Ieri mattina, notizie agi, Shanghai, 25 luglio, il governo cinese ha ridotto la pressione fiscale alle piccole imprese nell'ambito di un pacchetto di misure che punta a aiutare l'economia. Vuoi vedere che lui, ovviamente ortodosso com'è, ha seguito ovviamente la visione cinese. Fassina ha detto il cinese, ne avevano un altro vicino, cioè, torna il cinese a sinistra, evidentemente, può essere Fassina. No? Così le imprese che hanno un fatturato sotto i 20.000 mensile vengono detassate. Vuoi vedere che si è ispirato al grande modello cinese? Certo, sì, è Cofferati, era il cinese, no? È il cinese. Complimenti alla direttrice che è informata, legge le agenzie, tutto, mamma mia. L'unico guaio è che scrive tutto il giornale in verde, quelli che non vedono per riesco hanno quella malattia agli occhi che il verde non lo leggono bene, come fanno? Questo è un problema. Gli danno gli occhiali speciali. È un problema. Allora, sentiamo Epifani. Epifani ha parlato di Fassina, così le dichiarazioni. Che le parole di Fassina sono state interpretate con troppa malevolenza. Non si può far passare Fassina per uno che pensa che gli evasori abbiano ragione, non è così, non lo pensa, non è quello che sta facendo. È stata equivocata una sua frase relativa a una constatazione che non voleva essere una giustificazione. È stato equivocato, no, eccolo lì Epifani, ma come equivocato, ma era chiarissimo, era in italiano, questa cosa, no, ma non è che è peggio, non è che anche Epifani l'ha capita benissimo, è stato equivocata una frase, ma come equivocata, ma perché equivocata, perché bisogna fare il politichese sempre così, Vincino, aiutami, perché ci siamo immersi proprio in cosati, no? Equivocata. Hanno torto tutti, insomma, praticamente. Questo decreto è la cosa più imbecille del mondo, che non serve a niente a nessuno. Ma quale decreto? L'ostruzionismo è peggio ancora, proprio un ostruzionismo di quelli totalmente imbecilli. Cioè, quando, per esempio, Boato faceva 18 ore consecutive, sì, ma sì, lui stava sempre sul tema, per 18 ore. Sì, guarda, sì, io l'ho sentito per un'ora e mezza, ma era pazzesco, guarda, non si alzava, non andava mai in bagno, niente, stava sempre fermo là, tutto faceva una puzza pure lui, là, era cosa... Vabbè. E invece questo ti sembra tutto una macchietta, ma io non ho capito, equivocato, Aurora Russana, hai capito? È stato equivocato, è tutto... No, perché sai che a sinistra loro hanno studiato magari Jacques Lacan, l'inconscio del linguaggio, hanno predisposizione anche a fare delle analisi più approfondite, loro sono per il metalinguaggio, loro sono delle persone capaci di indagare il nostro inconscio, noi ci fermiamo a una lettura più superficiale, sì, e loro vanno avanti all'esegesi, cercano sempre di capire, la sinistra è così, Vincino, hai capito chi ti ho trovato, Vincino, una proprio di quelle precise, direttore della ce ne sono della Lega ogni tanto, ne vengono fuori così. Aurora, qui Vincino si sa che ogni tanto controlla la Lega, deve dare le sue stoccatine, che deve fare? Contro tutti, diciamo. Sì, dai, Vincino contro tutti, effettivamente. Però il modello proposto ieri di Zaia sul fisco, secondo me, vi convince, vero? Il modello di Zaia sul fisco. Ieri Vincino non ci ha preso sonno sul modello di Zaia sul fisco. Come attillato, doppia pena, come è fatto? Facciamo un'aliquota unica, più bassa per tutti, dure pene per chi evade e facciamo una sperimentazione. La flat tax, stupenda, sono d'accordo. 20% per tutti e via. Bacerei tutti, guarda. Ma anche Confindustria, tutti saremo d'accordo. Tutti d'accordo. No, allora, in tutto questo, devo dire, io ho provato ieri, prima un momento di rabbia profonda. Poi un momento di tifo pazzesco per questo deputato Matteo Dall'Osso, no? L'avete vista questa scena? Sì, mannaggia, questo deputato che è malato di sclerosi multipla, è stato lì, ha fatto il suo intervento, un intervento che è l'ordine del giorno per tirare anche lui lungo, no? Per bloccare i lavori, eccetera. Io lo voglio riproporre l'audio. A un certo punto, allora, Matteo Dall'Osso è un malato di sclerosi multipla, ha fatto fatica, era luna di notte, tremava un po', ha perso il filo e non si sentono, ma insomma sono partiti degli sberleffi ai suoi danni. Sentite l'intervento di Matteo Dall'Osso, è questo, no? Nell'ambito di un'azione volta all'attenzione dell'altro e a preservare ogni vita umana in tutte le sue forme e in ogni aspetto, è necessario rinsaldare le basi di una politica correlata alla donazione degli organi. Insomma, stiamo intervenendo su questo tema della donazione degli organi. A un certo punto dalla cui malinconia comincia a perdere un po' il filo del discorso. Non è affatto facile. Lui vede anche male, fa fatica a leggere con semplicità sui fogli. Di particolari. Sentite. A tal proposito, infatti, si riscontra come in Italia vi siano il 21,8% per milione i donatori d'organo. In Europa la situazione varia di in positivo, solo in Spagna il 35, in Francia il 25, mentre la situazione varia sì, cioè lo so ragazzi. Intende continuare? Sì, sì, assolutamente. E si sente anche la collega Giulia Di Vita, un po' di rispetto. Non vincino io quando ho visto, c'è cioè lui, addirittura che... Questi sono pazzetti, perché lui ha anche dell'umorismo. No, beh, sì, esatto. Non ha neanche alzato gli occhi, no? Che dice, sì, sì. Lo so, scusate, in quel momento è come dire, sono malato, che ci posso fare? Dal PD, c'è una parte del PD che è pazzesco. Vabbè, adesso c'è da dire, non si è ben capito, adesso queste sono le accuse di Grillo. Il giorno dopo lui ha ripreso la parola e ha detto questo. Straordinario, Matteo Dell'Osso ovviamente sarebbe da abbracciare. Sentite Matteo Dell'Osso il giorno dopo e dopo le polemiche. Vorrei rassicurare i colleghi dell'aula che sono venuti a conoscenza della mia storia ieri. Se ci fate caso, io sono seduto in fondo all'aula, quindi tutti i giorni faccio le scale per venire qua. E sono partito da una condizione che non muovevo le gambe, la mano, non vedevo da un occhio e non riuscivo a parlare. Oggi la mia storia è già diventata un case history internazionale, quindi se volete potete andare a documentare. E come ho scritto nella mia storia, pubblicata online nel 2009, parlando proprio di me, su di me, il titolo che l'ha resa famosa è stata Vinciamo Noi. E qui lo ripeto, vinciamo noi. Grazie. Beh, ma straordinario, veramente devo dire. Però io gli darei un posto alla in prima fila, però. Sì, ma non lo so, forse non è quello. Ma non so, non è neanche quello che chiede. Tra l'altro oggi fanno un'intervista al secolo XIX e gli chiedono ma si è offeso per tutti gli sfottò, ma figurarsi. Senti com'è, figurarsi, sono dei cucciolotti da accarezzare. Ma straordinario, stupendo. Straordinario. Dire, l'unico meraviglioso è quella massa là di predicatori tipo americani che ripetono cose senza senso. No, perché poi tanti di loro sono meglio dei vecchi volponi di 2, 3, 4, 5 legislature, però sono eterodiretti. Arriva quello e gli dice: ah, c'è il golpe, e quelli non se ne sono accorti e via. Ancora sto golpe. 24 mattino. Milan, buone vacanze. E visto che sono all'estero, non pensare all'Italia, tanto qui non cambia mai niente. Le auguro buone ferie. Una cosa le volevo dire: quando ritorna, cerchi di non stupirsi troppo di ciò che succede in Italia, perché il suo stupore non trova eco alla gente, in fondo, cioè ormai si è abituata, non gliene frega proprio niente. Buone ferie, dottor Milan. Attenzione, popolo italiano, c'è un pericolo nucleare. Dopo i razzi sulla Corea del Nord avremo la ritorsione nucleare. Ma fatevi i cazzi vostri, gli ha detto. Buona giornata, Alessandro. Buongiorno, dottor Milan. Sono operaio, guadagno 1.300 euro al mese, vivo in una casa d'affitto, moglie da mantenere e figlio da mantenere. Fino a poco tempo fa, però, pensavo di essere fortunato ad essere proprietario di una casa nella quale ci vive la mia anziana madre, 490 euro al mese di pensione. Poi è arrivato il professor Monti, mi dice che per questa casa devo dare allo Stato l'IMU come seconda casa. Ma come cazzo faccio? Ma io non riesco ad arrivare a fine mese. Come cazzo faccio ad avere una seconda casa se non ho una prima casa? Come si fa a non essere arrabbiati? Lei pensa che qualcuno farà qualcosa? Non farà un cazzo di nessuno, di niente. Questa è un po' la sfiducia, la rabbia dei cittadini. Aurora Lussana, guarda, abbiamo messo la segreteria telefonica, no? È un coacervo di sfoghi, no, di rabbia. È una bella fotografia. A volte diventa un po' una sputacchiera la segreteria, magari uno si sfoga anche un po'. Vero, ma va bene, è giusto così. Posso dire una cosa sulla papessa, però? Sì, la papessa Boldrini. Allora, quello che è successo alla Camera è una cosa indegna. Lei, che è una professionista dell'indignazione, scommetto che se il deputato Grillino fosse stato un profugo, lo avrebbe difeso prontamente. È stato umiliato dai colleghi in un luogo come la Camera. Io ho fatto la cronista parlamentare, quindi ho comunque, al di là di tutto, al di là del fatto che sono leghista e un po' iconoclasta, comunque un grande rispetto per l'istituzione. Ma non so neanche se era lei a presiedere di turno in quel momento. No, sai chi presiedeva? Era il vicepresidente sempre Grillino. Ah certo, Di Maio. Sì. Esatto, Di Maio, questo giovane vicepresidente. Però il giorno dopo poteva così esprimere un minimo di indignazione, visto che la paghiamo per indignarsi contro i profughi che sbarcano, non vengono assistiti, contro il razzismo. Lei si indigna per tutto. C'è stata una persona con cui vive una disabilità che è stata umiliata. E lei dov'è? La papessa? La papessa? Vincino la chiama così, la papessa. Una volta ha chiamato sempre qui da noi, sai come chiama Enrico Letta, il nostro direttore della Padania? Il nipotissimo. Io Cleopatra la chiamo. No, Cleopatra per il naso, la così. Però no, devo dire una cosa, la papessa. La papessa rispetto a Nilde Iotti proprio è una nullità. Cioè io l'ho messa a confronto, perché io l'ho disegnata tutte e due. Io ho visto come dirigeva la Iotti, era un'altra cosa, diciamo, non la Iotti sicuramente era severa, precisa, no, come Non è mica come le presidente della Camera leghiste, no? Irene Pivetti. Quella era una ragazzina messa là. Quella era stata una grande azione all'epoca, sì, assolutamente. Sì, all'epoca, poi sì. Quella si montò la testa, come si montano sempre la testa. E vabbè, ma questo capita, non... Però su Monti, avete visto ieri la foto di Monti fa 70 anni e Mike Jagger pure lui 70 anni? Mick Jagger, quello del Rolling Stone, bello, fresco, preciso. E Monti è tutto rovinato dall'Europa, dagli anni. Meglio Mick Jagger di Monti, meglio tanti anni di droga di Mike Jagger che tanti anni di Europa di Monti, si vede, è fotografico. Il messaggio, hai capito Aurora, il messaggio di Vincino, mamma mia. E allora vedi che faccio bene a far colazione con caffè e grappa e salame. Allora, visto che hai parlato della papessa, come la chiami tu, senti la Boldrini invece si è arrabbiata ieri a un certo punto con un rappresentante del Movimento 5 Stelle, sentite. Visto che comunque oramai questo Parlamento è nei fatti completamente inutile, poiché l'attività parlamentare... La prego di essere rispettoso per l'istituzione, sì, per no. favore, perché Presidente, mi sembra parlando... che non sia inutile. Sì, no, il Parlamento è il cuore della democrazia, assolutamente, si attenga a questo dato di fatto. In alternativa non c'è nulla in alternativa al Parlamento. Assolutamente c'è sì. C'è la dittatura. Eccolo qui, ma insomma ha detto come Fassina una cosa abbastanza sotto gli occhi di tutti e non si può dire, e questo è il dato di fatto. Dittatore. No, vabbè, adesso. Beh, però che ci sia la dittatura senza il Parlamento, questo sì. Però che questo Parlamento sia bloccato e non faccia nulla, e per come il sistema è tutto inutile, insomma, dai, non è che è un po', no, Vincino, è un po' come Fassina, che ci sono gli evasori di necessità. Cioè, sono però i primi sono loro, i grillini, quando vogliono levare il vincolo di mandato. Cioè, il parlamentare senza vincolo di mandato è proprio perché ogni parlamentare rappresenta l'Italia intera e può decidere da un giorno all'altro di cambiare idea, di votare in un modo, ed è bellissimo questo. Vabbè, ma comunque insomma sei indignata qua. Comunque ti hanno augurato in tanti buone vacanze. Mi hanno augurato in tanti buone vacanze. Bene. O mi vogliono cacciare, non lo so, in vacanza. Ci sono sempre le due. Alle Galapagos, dove stai andando? No, alle Galapagos. No, vado in Grecia, se c'è la Grecia. Sempre isole, sì. Io pure isola. Sì, io vado in vacanza. Aurora Lussana, stai mica qui a ascoltare una sentenza del 30 30 luglio. No, no, io non mollo, rimango in Padania, vado a fare le vacanze sul lago di Como. Ah, perfetto, in Padania, rimango in Padania. Ma sei mai andata all'estero oppure in Padania? Sempre in Padania, sempre, no. Vabbè, c'è il fidanzato in Svizzera, quindi figurarsi. C'è il fidanzato. No, parto per Mykonos, magari ci becchiamo su qualche isola greca. Ah, per Mykonos, svegliamo questa cosa. Andiamo in vacanza io e il direttore della Padania, lo avvisiamo anche il fidanzato, avvisiamo anche il fidanzato di Aurora Lussana, così. No, ma guarda che no, scusami, noi siamo un movimento. Oh, ma ti ricordi? Ma ti ricordi com'è nata la Lega? Col cielo turismo, siamo gente genuina, noi. Il cielo turismo, Posse e Maroni in 500 che riempivano di scritte Italia sopra. Padania libera, Padania libera. Vedi, siamo gente che si diverte, no? Vabbè. Perché sembra che i leghisti sono lì, sempre arrabbiati col mondo. No, anche si divertono. Anche la Super Paradise. Tirava tardi. Sì, si divertono. Vabbè, io vi devo salutare, ma proprio definitivamente, cioè, ci ritroviamo il 2 settembre. Se volete. Siete già invitati il 2 settembre. Assolutamente. Grazie Vincino, grazie ovviamente. Grazie Aurora Lussana, grazie direttore tutti, della Padania. Ciao, Aurora. Innocenti evasioni, così titolate oggi sulla Padania col PD. Anche voi, Fassina. Vabbè, mannaggia. Grazie a tutti. C'è il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo per la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, le 7:15 minuti, siamo sempre qui, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali con voi nella rassegna stampa. Vi ricordo che tra l'altro è l'ultima rassegna stampa, poi si va in vacanza, avete sentito anche in giornale nel traffico, c'è già il traffico, almeno io vado in vacanza, poi ci sarà ovviamente, continuerà il programma con i colleghi del Sole 24 Ore a leggere la rassegna stampa, ma io mi fermo qui. Dopo oggi e ci ritroveremo il 2 di settembre. Oggi avremo ospite Vincenzo De Luca, che è il vice ministro delle infrastrutture e trasporti e anche il sindaco di Salerno, una doppia carica tra l'altro che suscita qualche polemica. Sarà nostro ospite alle 8:15, poi parleremo allora di questa vicenda dell'evasione di necessità. È il tema, più che di necessità, di sopravvivenza, il tema lanciato ieri dal vice ministro dell'economia Stefano Fassina, che ieri era anche qui a Radio 24 da Sebastiano Barisogna, Focus Economia, e che oggi è l'apertura anche di vari quotidiani. Insomma, esiste questa evasione da sopravvivenza, ne parliamo alle 8:30 con Bruno Tinti, ex magistrato, ora al Fatto Quotidiano, e Claudio Borghi, economista, editorialista del giornale. E che dire, e andiamo a leggere i quotidiani che trovate in edicola. Questo venerdì 26 luglio i titoli, il Sole 24 Ore si concentra proprio sul fisco, ma su un altro tema: fisco, così cambia la riscossione. Equitalia non può più bloccare con il fermo i veicoli di imprese e professionisti. Questo è il titolo di prima pagina, vedremo i dettagli. Per il Corriere della Sera, l'evasione fiscale fa litigare il PD. Mentre gli altri quotidiani, a sinistra scontro sul fisco, così apre La Stampa. Il Messaggero, lotta agli evasori, bufera nel PD. Il Giornale, la svolta del PD, gli evasori non sono più cattivi. Libero, un paese da matti, ci teniamo i clandestini e cacciamo le imprese. Il Secolo XIX, anni per ridurre le tasse, il ministro del tesoro Saccomanni gela le attese e Fassina, c'è chi evade per sopravvivere. Per l'Unità, scontro su tasse e sviluppo, mentre Repubblica apre su una notizia: soldi ai partiti, la spugna del PDL, c'è un emendamento alla norma sul finanziamento ai partiti proposto dal del Popolo della Libertà che vuole depenalizzare il reato di finanziamento illecito ai partiti stessi. Mentre il Fatto Quotidiano lancia in prima pagina questa campagna: salviamo la Costituzione, nel segreto di alcune stanze PD, PDL, Centro modificano l'articolo 138 per stravolgere l'intero impianto della Carta Costituzionale. Il Manifesto invece apre sull'internazionalità, contagio egiziano a Tunisi, ucciso il leader dell'opposizione, mentre Avvenire, Cristo nella favela, questo è il titolo di prima pagina, ovviamente il viaggio del Papa in Brasile. Io però voglio partire da che cosa? Un'intervista molto intensa, un'intervista sicuramente sui generis, un'intervista che riporta alla luce uno spaccato d'Italia di tanti anni fa e che viene proposta dalla prima pagina della Stampa. Chi viene intervistato è Leonardo Marino. Leonardo Marino oggi ha 67 anni, è un rivenditore di crepe a Bocca di Magra in provincia della Spezia. Leonardo Marino è il grande pentito nella vicenda dell'uccisione del commissario di polizia Luigi Calabresi. È la prima volta che parla in maniera così intensa dopo tanti anni. Lo stesso Marino dice: io non volevo fare questa intervista, ma faccio questa intervista perché in qualche modo mi devo far perdonare dalla famiglia Calabresi. Commissario Luigi Calabresi, ucciso secondo i processi da Lotta Continua, ucciso dallo stesso Marino, ucciso da Pietro Stefani, Mandanti, Adriano Sofri e Ovidio Bonpressi. Leonardo Marino parla al giornale diretto dal figlio di Luigi Calabresi, Mario Calabresi. Ecco perché dice: non volevo fare questa intervista, ma la faccio alla Stampa perché mi sento di dover chiedere perdono. Eravamo una generazione persa, ora sono me stesso. Viene intervistato da Michele Brambilla, l'intervista la trovate con richiami in prima pagina e poi un'intera pagina 15. Parla Leonardo Marino, che dice: cerco di non ricordare, 3 giorni fa è venuto anche qui un signore, mi ha chiesto: è lei Marino? Io ho risposto di sì. E lui: allora voglio darle la mano, ma la maggior parte della gente che passa di qui non sa niente e a me va bene così. Le chiediamo però di ricordare per una volta. E allora lui dice: io andai per primo dopo tanti anni, il 17 maggio 72 fu l'omicidio Calabresi, e lui anni dopo, libero, incensurato, andò a confessare. Andai per la prima volta dal prete, poi andai ai carabinieri di Ameglia. Qui nacque la leggenda, quella di Marino imbeccato dai carabinieri, ma la verità è semplice: cosa voleva che ne sapesse il maresciallo di Ameglia dell'omicidio Calabresi? Era una roba più grossa di lui. E allora chiamò i superiori, mi tennero in carcere un paio di mesi. Intanto non si capisce poi che interesse avrebbero avuto i carabinieri a costruire false accuse contro un movimento Lotta Continua che non esisteva più da oltre 10 anni. Lei si aspettava da Lotta Continua una simile campagna contro di lei dopo che confessò? Me l'aspettavo, dice Leonardo Marino, e il loro stile hanno fatto con me quello che avevano fatto con Calabresi. Da quanto tempo non vede più i suoi 3 ex complici? Sofri e Bonpressi dall'ultimo processo nel 2000, Pietro Stefani era già latitante all'estero da tempo. L'opinione che ho di loro: ognuno fa i conti con la propria coscienza. Mi sento più legato certamente a Bonpressi, era uno come me, uno di quelli che quando tiravano una pietra non nascondevano la mano. Poi dice: guardi, al processo l'avvocato Maris mi diceva: saranno condannati dalle loro stesse parole, hanno negato anche di fronte all'evidenza, come le pistole rapinate all'armeria Leone di Torino trovate in possesso di militanti di Lotta Continua. Io invece non ho mai avuto dubbi anche del colloquio fatto alla fine di un comizio in cui, secondo l'accusa e secondo Marino, fu dato l'ordine da Sofri di uccidere il commissario Calabresi. Le parole esatte non le posso ricordare, ma certe cose si possono capire solo tra chi è stato in un certo ambiente. Io avevo chiesto a Pietro Stefani garanzie per la mia famiglia nel caso fossero andate male le cose, volevo rassicurazioni da Sofri. Loro dicono: a Pisa non ci fu il tempo per parlarsi sotto il palco del comizio, ma lui sapeva già tutto, gli bastò un attimo per darmi la conferma. E poi ancora nell'intervista molto intensa in cui Marino dice: beh, io non spero più che altri confessino, la loro scelta l'hanno fatta per troppo orgoglio, non confesseranno mai. La verità però è stata stabilita da ben 7 processi, più quello di revisione a Venezia, concesso per motivi che non stavano né in cielo né in terra. E alla domanda: Calabresi fu ucciso solo da voi quattro, sono sicuro che ci furono dei complici d'appoggio, ma non lo posso dire perché non so i loro nomi. Poi nell'estate 1988, quindi a distanza di 16 anni, ho confessato, ero già distaccato da Sofri da un pezzo, se è questo che vuol dire, e posso aggiungere solo una cosa in conclusione. Che cosa, chiede Alberto Brambilla, Michele Brambilla, scusate, della Stampa. Vorrei che lei scrivesse che io non avevo alcuna voglia di fare questa intervista. Ho accettato solo perché in qualche modo devo farmi perdonare dalla famiglia Calabresi. Mi chiedo il diritto ora e chiedo a tutti il diritto di avere e vivere una vita normale, perché faccio fatica ogni volta a parlare di queste cose. Insomma, parla per la prima volta in maniera così, così lunga e così intensa il pentito Leonardo Marino, che rivelò i nomi dei responsabili dell'agguato, dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi, ucciso a Milano il 17 maggio del 1972. Dice Marino: mi chiamano traditore, ma io posso girare a testa alta. L'intervista la trovate sulla Stampa, giornale, come dice lo stesso Marino, è il motivo per cui ha rilasciato questa intervista, diretto oggi dal figlio del commissario Calabresi, Mario Calabresi. Vabbè, ho voluto iniziare con questa intervista. Su tutti i giornali trovate, io veramente sono rimasto sconcertato, ne abbiamo già parlato un po' alle 6.30, sconcertato all'inizio e poi meravigliato, sorpreso in maniera positiva dalla reazione di questo deputato del Movimento 5 Stelle, Matteo Dall'Osso, che è stato suo malgrado vittima e al centro di una polemica di un giorno, quando durante i discorsi tenuti alla Camera per ritardare i lavori che stanno facendo il Movimento 5 Stelle, questo Matteo Dell'Osso un paio di giorni fa, in piena notte, l'una e mezza di notte circa, ha perso il filo, ha perso il segno mentre parlava, perché Matteo Dell'Osso è affetto da sclerosi multipla. Ha problemi anche per esempio alla vista e quindi ha fatto fatica a leggere i fogli. Se vedete quel video, circola molto online, c'è stato un momento in cui esita, in cui chiede addirittura scusa lui e dice: lo so, scusate. Nel frattempo si sentono in sottofondo degli sberleffi, qualcuno che lo prende in giro. Ora non si sente l'audio, ma secondo alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle avrebbero preso in giro addirittura balbettando o dicendo: dategli il foglio che non sa neanche leggere, insomma cose veramente odiose, odiose. Poi Matteo Dell'Osso il giorno dopo ha preso la parola e con quel "vinciamo noi", no? Ha raccontato la storia sua di malato di sclerosi multipla. Oggi fa un paio di interviste, tutti i giornali si concentrano su questa vergognosa presa in giro che c'è stata. Io voglio solo sperare, voglio pensare che i deputati che hanno preso in giro Matteo Dell'Osso nel momento in cui parlava non sapessero della sua situazione fisica, anche se lui dice tutti la conoscevano, ne ho parlato in aula più volte, quindi come minimo sono dei distratti. Comunque, PD e Montiani irridono il deputato con la sclerosi, questo è il titolo per esempio di pagina 6 del quotidiano Libero, con un editoriale anche di Mario Giordano in prima pagina. Matteo Dell'Osso fa un paio di interviste alla Stampa: al deputato disabile deriso, hanno offeso le istituzioni, urla e sfottò durante l'intervento notturno del grillino, ma lui dice: sono solo degli ignoranti. Ma soprattutto mi piace l'intervista che fa al Secolo XIX, questa persona, Matteo Dall'Osso, che se l'avete sentito poi, insomma, il giorno dopo ha preso la parola, si è messa a ridere quasi, a dire: ma io, abituato a tutto quello che ho passato nella vita, addirittura ero in carrozzina, non riuscivo a muovere gli arti, adesso vado molto meglio, faccio le scale tutti i giorni, quindi voglio dire, ho provato quasi compassione per queste persone che mi sfottevano. Battute e risatine non mi feriscono più, dice per esempio in questa intervista al Secolo XIX. Dice: in quell'aula si respiravano due sentimenti diversi, uno contro di me, uno in mia difesa. Giulia Di Vita, mia collega al Movimento 5 Stelle, ma anche altri, ribollivano di rabbia, si sono sentiti attaccati personalmente perché siamo una comunità ormai. Io avevo già esposto la mia storia in aula, la conoscono tutti, se non lo sapevano sono stati disattenti e superficiali, io da un rappresentante delle istituzioni mi aspetto molta più partecipazione. E poi dice: si sono scusati con me alcuni di loro, mi hanno detto che Lega e PD hanno espresso solidarietà, io ho ricevuto una telefonata da Scelta Civica, erano mortificati. Ma è così, qui è uno stadio, se vedono un animale sanguinante gli si gettano addosso come lupi, ma sono abituato agli sfottò, mi ricordano quando facevo i campionati di nuoto. e dice dall'osso la frase più bella, quando gli chiede Ilario Lombardo del secolo XIX: ma lei si è sentito ferito da queste offese? Ma va là, e si mette a ridere. Con tutto quello che ho passato nella mia vita, queste persone che mi hanno offeso sono dei cuccioletti da accarezzare. Ma straordinario, veramente merita un applauso corale. Queste persone che mi hanno deriso sono dei cuccioletti da accarezzare. Straordinario. Anche sul Corriere gli sfottò al deputato malato l'ira di Grillo, ma lui dice: ho visto di peggio. Intervistato da Emanuele Buzzi sul Corriere a pagina 5. Vabbè, in tutto questo che succede? Il Parlamento è paralizzato, mancherebbero 8 giorni per le vacanze. Pare che si possa lavorare anche questa domenica, pare che le vacanze debbano e possano slittare, pare che ci possano essere dei rinvii in autunno. Ma dai, l'unica cosa che non rinviano è che arriva a giorni proprio la tranche da 91 milioni di euro che i partiti si possono e si devono spartire. Lo dico, in realtà lo dico sempre, però se non lo dico poi mi rompono i maroni. Il Movimento 5 Stelle è l'unico partito che rinuncia a questi emolumenti. Che cosa succederà alla Camera? Da qui ripartiremo dopo le informazioni su meteo e la pubblicità, e anche con la frase di Fassina, vice ministro dell'economia: c'è un'evasione di sopravvivenza. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7:33 minuti siamo qui a leggere i giornali per l'appunto, come dice la nostra simpatica ascoltatrice che andrà in vacanza anche lei da oggi per partire il 2 settembre. Allora, Stefano Fassina, vice ministro all'economia, ieri ha detto che esiste una evasione per sopravvivenza. Apriti cielo, il dibattito a sinistra si è squarciato in accuse dure. La Camusso, per esempio, segretaria della CGIL, dice: un errore politico e di metodo clamoroso. Epifani ha cercato di annacquare tutta la vicenda dicendo: Fassina è stato equivocato. Ma come equivocato? No, è stato chiarissimo. E infatti oggi Stefano Fassina fa altre interviste, nelle quali, se voi pensate che la notte abbia portato in qualche modo da parte del PD e quindi a Fassina consiglio, beh, vi sbagliate di brutto, perché Stefano Fassina ribadisce assolutamente quello che ha detto, per esempio lo fa all'Unità, pagina 2. Alle polemiche politiche risponde: se davvero vogliamo sconfiggere l'evasione fiscale dobbiamo conoscerla, analizzarla in tutte le sue forme senza nasconderci le verità. Intervistato da Luigina Venturelli, dice Fassina: certo che esiste un'evasione di sopravvivenza, c'è una connessione stretta tra pressione fiscale, spesa ed evasione. Affermarlo non vuol dire strizzare l'occhio a nessuno, né ammettere ambiguità nel volerla contrastare, semmai il contrario. Per contrastare gli evasori dobbiamo renderci conto che non sono tutti milionari con grandi patrimoni in Svizzera o altri paradisi fiscali. Però, secondo il segretario generale della CGIL Camusso, lei ha commesso un errore politico. Risponde Fassina: avere responsabilità di governo non significa indossare paraocchi che non permettano di vedere la realtà. L'evasione fiscale non nasce solo dall'egoismo delle classi sociali più agiate o dal ribellismo nei confronti di costi della politica ritenuti ingiustificabili e opere pubbliche considerate solo sprechi. Nasce anche da un apparato produttivo frammentato, con un numero abnorme di microimprese rispetto ai paesi più avanzati, primitive in termini di struttura gestionale e finanziaria, per una parte delle quali l'evasione è stata sussidio, pur inefficiente e regressivo, alla produzione e all'occupazione. E tra l'altro anche a Repubblica ribadisce: non li giustifico come Berlusconi, ma c'è chi non riesce proprio a pagare. Questo è il titolo dell'intervista a pagina 8. Intervistato da Umberto Rosso, Fassina ribadisce: ma non scherziamo, io non l'ho detta come Berlusconi, io l'evasione la voglio sconfiggere, ma per contrastarla bisogna riconoscerne le diverse cause, non sempre e non solo è una questione morale. Quelli che davvero non ce la fanno a resistere alla pressione fiscale, quelli sono gli evasori di sopravvivenza, pagherebbero pure, farebbero volentieri a meno di evadere, ma dentro un sistema produttivo arretrato e soffocante come il nostro finisce che l'evasione diventa un sussidio inefficiente e regressivo alla produzione e all'occupazione. Insomma, non tutti gli evasori sono uguali. Ma così lei fa felice la Lega, fa felice il PDL. Ma figuriamoci, risponde Fassina, proprio la Lega che con il rientro dei capitali inventato da Tremonti e Berlusconi ha usato come scudi umani i contribuenti minimi, chi è in difficoltà, per lasciare indisturbati gli evasori patologici. 105 miliardi frutto di evasione regolarizzata. E vabbè, diciamo che Fassina, appunto, non altro che smentì, altro che è stato equivocato, come ha detto Epifani, abbiamo fatto sentire alle 6.30, una sua frase è stata equivocata, il tentativo in qualche modo di insabbiare la vicenda. No, no, no, è stato chiarissimo. Tra l'altro il Corriere della Sera con Antonella Baccaro racconta, pagina 3, sotto il titolo Assedio bipartisan al vice ministro, ma il fisco così non funziona, come la distrazione anche dei giornalisti abbia reso una notizia a quello che Fassina dice da tempo. L'evasione fiscale in Italia non è solo patologia, purtroppo è anche fisiologia, è anche condizione di sopravvivenza. Lo ha detto Stefano Fassina sull'Unità, lo ha scritto nel maggio 2010. E lo stesso Fassina, in un'intervista al Foglio il 29 aprile dello stesso anno, sempre 2010, diceva: la riduzione del carico fiscale è una priorità non più in favore solo dei lavoratori ma anche per i professionisti, artigiani, commercianti e imprenditori. In quell'occasione Fassina si spinse a rinnegare il suo maestro Visco, mandando in soffitta gli studi di settore, uno strumento sinonimo di insostenibile carico fiscale. Insomma, non è la prima volta, il Corriere fa sapere che Fassina dice queste cose, anche sulla Stampa non c'è niente da chiarire. Quando ieri montavano le polemiche, Fassina in Transatlantico ha detto: non è una bestemmia, ho detto soltanto la verità. Di questo parleremo alle 8.30. Ha detto la verità o è stato equivocato, dice Epifani, oppure ha sbagliato, comunque la pensiate, alle 8.30 approfondiremo con voi. Intanto, anche per il fatto, Fassina giustifica l'evasione, il suo maestro Visco lo blocca. Ovviamente da parte politica, e qui c'è forse l'accusa di aver fatto un errore politico, subito PDL con Brunetta dice: benvenuto nel PDL, parla come noi. La Lega, finalmente Fassina parla come noi. Ecco, questo è forse l'errore politico che imputa a Fassina, quello di avere in qualche modo dato sponda a partiti che fanno parte della coalizione, come nel caso del PDL, non della Lega, ma in qualche modo di dire: ecco, vedi che allora abbiamo ragione noi. In ogni caso, sul fronte del fisco oggi è importante leggere il Sole 24 Ore per quel che riguarda le novità proprio sulla riscossione, perché queste sono le polemiche politiche dopo la dichiarazione di Fassina, poi ci sono le questioni pratiche. La riscossione allenta la morsa, questo è il titolo di pagina 3 del Sole 24 Ore. Che cos'è la novità più importante? Come racconta Luigi Lovecchio, è lo stop al fermo amministrativo dei beni strumentali all'attività di impresa o alla professione e previsione di una relazione governativa da redigere entro 9 mesi in ordine agli effetti delle misure pro contribuente approvate con il decreto del fare. Queste sono le modifiche apportate dalle commissioni della Camera in sede di conversione di legge del decreto. La novità più importante è sicuramente quella riferita al fermo amministrativo, che riguarda anche il relativo procedimento, cioè non si potranno più fermare i beni amministrativi se sono veicoli strumentali dell'impresa o del professionista. Beh, questa è una novità importante, così come la novità riguarda il DURT. Questo acronimo, pagina 2, è stato inserito a sorpresa nella Commissione Affari Costituzionali e Bilancio nel decreto del fare, introduce questo documento unico di regolarità tributaria, un qualcosa che complica dal punto di vista della burocrazia per le imprese che si sono subito lamentate le procedure appunto per gli appalti, e il DURT, questo scrive il Sole, scrivono tutti i giornali, dovrebbe essere abolito in fase di conversione al Senato. Questo è l'impegno del governo, interverremo, e quindi il titolo a pagina 2 del Sole è: verso l'abolizione del DURT al Senato. Questo peraltro potrebbe comportare una modifica del provvedimento così come è stata approvata alla Camera, e quindi la necessità di tornare alla Camera dopo il Senato per un'ulteriore e ultima approvazione definitiva. Questo lo dico perché guardate che alla Camera, al di là dell'opposizione del Movimento 5 Stelle, il cosiddetto filibustering, cioè parlare per perdere tempo, per prendere tempo e per ostruire, ostacolare il regolare svolgimento dei lavori in maniera ovviamente legale, non so, facendo ordini del giorno che non portano a nulla, che però servono a dilatare i tempi. Ebbene, questo comporta alla Camera quello che è stato definito, Camera e Senato, il Vietnam parlamentare, cioè... Leggete Roberto Turno a pagina 2 del Sole, è un disastro, mancano in teoria 8 giorni alle ferie, ma forse le ferie a questo punto saltano, forse la Camera lavorerà anche la domenica, dopodomani, perché altrimenti non si riesce a provare nulla. Ci sono decreti da convertire, disegni di legge da approvare, misure urgenti, ancora 8 giorni di fuoco per il Parlamento, scrive Roberto Turno. Sui decreti si giocherà una partita in castro, il decreto del fare va al Senato, dove la seconda fiducia sembra scontata, ma c'è il pericolo di un nuovo ritorno alla Camera se verrà modificato. Dal Senato invece dovranno passare alla Camera i decreti IVA, lavoro e svuota carceri, altre fiducie in vista, mentre il decreto ILVA non passerà in discesa sempre al Senato per il voto finale, pure quello sugli ecobonus dovrà fare gli straordinari. E già soltanto a considerare il pacchetto dei decreti legge, la roadmap indicata da Palazzo Chigi è destinata a subire non solo una semplice aggiustatina. Insomma, il rischio flop e di rinvio di molti provvedimenti, scrive il Sole, è non solo un'ipotesi, con la delega per la riforma fiscale che spunterà con più precisione da settembre. Ancora 8 giorni di fuoco, restano da convertire 6 decreti prima della pausa estiva, si rischiano 3 o 4 voti di fiducia negli ultimi giorni. Anche il Messaggero si concentra così, decreti, mano dura di Letta, in arrivo 8 questioni di fiducia, potrebbe essere 8 addirittura per il Messaggero, come scrive Alberto Gentili a pagina 5. Tutto insomma rischia di impantanarsi, raccontano per esempio il Fatto Quotidiano, una pagina di Paola Zanca, pagina 4, cornetti, Sambuca, insulti, le 45 ore di trincea del Movimento 5 Stelle con tutto quello che è comportato, cioè sedute notturne. Eccolo qui Repubblica, Camera al lavoro anche domenica, Alberto D'Argenio a pagina 6, il governo sfida l'ostruzionismo e chiederemo di saltare le vacanze. Il Movimento 5 Stelle dice un compromesso, se voi bloccate le riforme noi ci fermiamo con l'opposizione. L'Unità mette questa cosa come un vero e proprio ricatto del Movimento 5 Stelle. Il Fatto Quotidiano invece la vede come un salviamo la Costituzione, cioè stanno cercando di stravolgere l'articolo 138 per dare la possibilità di votare le modifiche alla Carta Costituzionale al Comitato dei 42 che verrà istituito in autunno, e quindi bisogna fermare questo attacco alla Costituzione. Insomma, io credo che se un marziano scendesse sulla Terra a vedere quello che cercassimo di spiegargli cosa sta succedendo in Parlamento, si metterebbe la mano sulle antenne e scapperebbe via, disperato. Dice no, per favore, non, neanche quelli che ossessivamente e per lavoro seguono in maniera precisa quelli che sono i lavori parlamentari riescono a raccapezzarsi più. Non si capisce più niente, quasi niente. L'unica cosa che si capisce, è questa. Al 31 luglio, quindi tra un paio di giorni, arriveranno i rimborsi elettorali, quelli tranquilli, quelli il 31 luglio 56 milioni alla Camera e circa uguale al Senato, in tutto sono 91 milioni di euro ai partiti, tranne il Movimento 5 Stelle che rifiuta questa cosa, questi se li spartiscono. Eccolo qui il Quotidiano Nazionale, al rimborso non sanno rinunciare, i partiti si spartiscono 56 milioni, tutto il resto è un rinvio e anche un po' delle barzellette, perché Letta ci riprova. Oggi una nuova legge svuota province, questo al Consiglio dei Ministri di oggi, pagina 8, oppure Quagliariello, ministro delle riforme su Repubblica, la legge elettorale è una priorità, se ad agosto si lavora si può fare, e anche qui insomma scusate ma le grasse risate sono qualcosa che ti allietano la giornata. No, in realtà tranquilli, non si farà nulla, slitterà tutto, i rimborsi ai partiti quelli invece no, quelli si passa all'incasso. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccoci qui, cari panettieri d'Italia. Allora, oggi Repubblica mette in prima pagina una denuncia, un'esclusiva che ha Repubblica con Liana Milella in prima pagina a dire: attenzione, c'è un emendamento sulla norma sul finanziamento ai partiti, quella norma che, detto per inciso, probabilmente verrà fatta slittare in autunno. Una norma che un emendamento del Popolo della Libertà che punta a depenalizzare il finanziamento illecito ai partiti, appunto. Liana Milella in prima pagina: soldi ai partiti, la spugna del PDL, via il carcere per punire il finanziamento illecito ai partiti, via i 4 anni di pena, solo una sanzione amministrativa pecuniaria. Firmato il PDL. Seppellita per sempre Mani Pulite, cancellate tutte le inchieste presenti e future. Una moratoria pazzesca in 20 anni di norme per demolire il codice penale, mai si era osato tanto. L'articolo, scrive Liana Milella poi a pagina 2, quando ne parli con i magistrati protagonisti di Mani Pulite ti dicono subito: dai, non scherzare, non è possibile, non ci credo, non possono arrivare a tanto. Ma quando glielo confermi restano basiti. Così finiscono le indagini sulla corruzione. L'emendamento è il numero articolo 10 bis, criptico. Recita così: all'articolo 7 terzo comma le parole da reclusione a triplo sono sostituiti dalle parole sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo. Firmato Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano, sono i deputati del Popolo della Libertà. Per Repubblica è la norma che getta una spugna sulla penalizzazione del finanziamento illecito ai partiti, resta solo una multa e non il carcere. Questa è la denuncia di Repubblica. Vedremo se oggi ci saranno reazioni su questo. Intanto, di che cosa non si poteva fare a meno, secondo voi, in questa estate un po' travagliata per molti italiani? Ma certo, ma del dibattito sul fighettismo del PD, dopo che Enrico Letta, parlando ai deputati del PD, ha detto: smettetela di fare i fighi o i fighetti per prendere dei consensi magari su Twitter e social network. Apriti cielo, eccolo lì il dibattito sui fighetti del PD. Il Corriere, da Civati a Puppato, la rivolta dei fighi evocati da Letta. Fabrizio Roncone va a intervistare Civati, che dice subito: ma certo che si riferiva a me, mi sembra chiaro, a me, a Renzi, insomma chi non è allineato. E Civati dice: io fighetto, lui Letta è un prepotente, perché no, dico, usare certi toni antipatici nei confronti delle minoranze mentre fai il premier e hai tutto il gruppo dirigente del PD, Renzi a parte, al tuo fianco, dai su, ma come si fa? Ecco, risponde così il presunto fighetto Civati. Una pagina del Giornale, Fabrizio Rondolino: quei fighetti della sinistra, tutti giubbotti e sgomitate. Renzi, Civati, Boccia, la Serracchiani, Franceschini e la Moretti. Questi sono messi quelli a caccia di applausi. Dissidenti di professione, la sparano grossa per comparire a ogni costo. Una pagina. Gentiloni, intervistato da Repubblica: sbagliato dare del fighetto ai dissidenti. Chi critica... Non ce la faccio neanche a finire di leggere il titolo. Non so, leggetevelo su Repubblica, pagina 10, se volete. Come spesso succede, Iena sulla stampa col suo graffio sintetizza in maniera efficace. È molto efficace. Sanno da dove vengono, non sanno dove vanno. Oggi la direzione del PD. Questo Iena sulla stampa. In ogni caso, la cronaca, c'è molto ovviamente della Spagna, questa terribile tragedia causata ormai sembra certo dalla, come dire, dabbenaggine, uso un eufemismo, dell'autista di questo treno ad alta velocità, che invece di andare a 90, 80, 90 all'ora, come era previsto, in quella curva andava a 190 all'ora. Lui stesso lo ha ammesso: andavo a 190, e tra l'altro è venuto fuori che in passato si era vantato su Facebook, facendo le foto al tachimetro a 200 all'ora, mi daranno la multa, l'autovelox, rideva, sghignazzava. E adesso cosa dice? Voglio solo morire, siamo umani, ho sbagliato, andava a 190 all'ora. Razza di imbecille. È un po' troppo tardi, non credi? È così. Ora voglio morire, questo è il titolo che trovate di Francisco José Garzón Amo, l'autista, il ferrotranviere che si vantava in passato di andare a 190-200 all'ora, e in quella curva ci sono le immagini che potete trovare sulla rete, su internet. sono morti 80 persone, 80 persone. La cronaca, cito questa del Messaggero perché solo sul Messaggero l'ho vista, è molto importante, riguarda tutti i nostri figli. Oggi in Consiglio dei Ministri il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, scrive il Messaggero, porterà un provvedimento che estende il divieto totale del fumo a scuola, anche nelle zone aperte. Quindi anche nei cortili, sigarette proibite anche nei cortili e nelle aree aperte. Pagina 13 del Messaggero, Carla Massi, fuori le sigarette da cortili, parcheggi, giardini delle scuole. Devono restare in tasca, che siano bionde vere con il tabacco o anche quelle elettroniche da svapare. Oltre al vecchio divieto nelle classi, corridoi, bagni, in qualsiasi luogo al chiuso, ora non si potrà più fumare neppure nell'area della scuola. Divieto per i ragazzi, ma anche per i professori. Solo dopo aver oltrepassato il confine tra istituto e il luogo pubblico sarà possibile accendere una sigaretta. La proposta di introdurre un nuovo comma nella legge antifumo del 2003 è contenuta nel disegno di legge che oggi il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin presenterà al Consiglio dei Ministri. E dunque anche per professori non si fuma a scuola, neanche nei luoghi all'aperto. Siamo al momento dell'ultimo, la carta costa prima delle vacanze, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Ieri già me l'aveva segnalato su Twitter, ma è con la sua straordinaria ironia, Selvaggia Lucarelli già quasi si era assegnata il premio la carta costa di oggi, dicendo ieri su Twitter: sappiate che ho dovuto spedire appena adesso un articolo su Libero sulle unghie, sulla moda di farsi le unghie. E allora unghie horror show oggi stravince la geniale Selvaggia Lucarelli su Libero a pagina 17, dal French ai disegnini, il peggio che le estremità possono offrire, una pagina, e la stessa Selvaggia inizia: d'accordo, l'argomento non è di quelli per cui domani si chiederà un minuto di silenzio negli stadi, neppure una seduta d'urgenza in camera di consiglio, ma se anche Tania Cagnotto il giorno della vigilia mondiale twitta una foto dei suoi piedi smaltati sul trampolino ringraziando la Nail Spa che glieli ha pittati, vuol dire che la faccenda è seria. E così continua con tutti i vari tipi, i colori, la righina bianca, la francese, la stessa che indossai io e feci fare quando mi sposai, tanto che fu una richiesta serie di annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, scrive Selvaggia Lucarelli. I geroglifici, la lunghezza, la forma, la manutenzione, tutti i tipi di unghie, horror show, Selvaggia! Selvaggia, tu che sei un genio della penna, del leggero, del gossip, oggi stravinci la carta costa, perché questo è, state attenti, Libero, che la carta costa! 24 mattino. Eccoci qui alle 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, con noi c'è subito per partire il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Vincenzo De Luca. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, De Luca. Buongiorno lei, ascoltatore. Il Partito Democratico. Senta, il tema del giorno è diventato inevitabilmente quello che un suo collega di partito e di governo ha detto, Stefano Fassina, e sull'evasione di sopravvivenza. Lei concorda? Tutto questo dibattito che si è scatenato sia un'ennesima prova dell'idiozia che regola ormai il dibattito pubblico di questo paese. Una delle malattie dell'Italia, anche sul piano economico, è quella che io chiamo l'inflazione delle parole. Quindi noi abbiamo non solo una crisi del credito, dello sviluppo, abbiamo una crisi legata all'inflazione delle parole, la quantità di chiacchiere che circolano in questo paese è sconvolgente. Fassina ha detto una cosa credo banale, ha fotografato una realtà, non ha giustificato nessuno, non ha strizzato l'occhio a nessuno. Ha detto semplicemente che ci sono settori di piccola e media impresa, di piccolo commercio marginale, settori di studi professionali che sono alle prese con la sopravvivenza davanti a un carico fiscale. Punto. E perché tutto questo, secondo lei, questo dibattito? Perché piace, perché fa polemica? Perché piace, perché c'è gente che non ha niente da fare la mattina, perché la principale attività del 90% del mondo politico è strappare un titolo di giornale, una partecipazione ai pollai televisivi, questo è tutto. questo è tutto. È incredibile, è anche deprimente, per la verità. Però quindi Fassina, lei dice, ha detto solo una banalità, ha detto una cosa, ha fotografato una realtà. Ha fotografato un dato della realtà. Guardi, gli voglio esprimere la mia solidarietà. Io l'ho criticato tante volte Fassina per un'immagine, come dire, di espiatore che trasmetteva, di pessimista cosmico. Ma in questo caso mi pare che abbia detto una cosa veramente di una tale semplicità e ovvietà che però, tutto questo dibattito mi pare assolutamente strumentale. Però, Vice Ministro, le chiedo questo. Lei, per esempio, fa parte di una cabina di regia per sburocratizzare al Ministero, parlando con imprese, enti locali, eccetera, il tema della casa, il tema sul tema di temi molto, molto caldi sulle politiche abitative, eccetera. Allora, che cosa si può fare per sburocratizzare? Perché, la burocrazia è il malato numero uno dell'Italia, è il problema, la malattia numero uno dell'Italia. Che cosa si può fare per sburocratizzare? C'è qualcosa allo studio? Sì, noi abbiamo insediato un primo gruppo di lavoro per quanto riguarda le politiche della casa e abbiamo convocato già martedì prossimo un altro gruppo di lavoro che impegna direttamente l'associazione dei costruttori, altre associazioni di categoria, gli ordini professionali, avendo questo obiettivo, arrivare a settembre a definire un pacchetto abbastanza corposo di misure anti-burocrazia, raccogliendo tutto quello che non è compreso nella legge del fare, dove ci sono piccole cose significative, ma non tutto quello che ci serve. Allora, l'obiettivo è questo, dare una svolta radicale in termini di sburocratizzazione al nostro paese, e lo faremo insieme con le categorie produttive. Il sistema dei controlli preventivi, per quello che mi riguarda, va smantellato. Non è possibile perdere 3 anni per avere una valutazione di impatto ambientale. Bisogna rivedere i rapporti nell'ambito della normativa degli appalti pubblici fra imprese e pubblica amministrazione. Qualcosa è stato fatto, mi pare che andiamo ad acquisire l'anticipazione del 10% sull'importo dei contratti, ma bisogna fare molto di più. Rapporti con le soprintendenze, rapporti con i tribunali amministrativi, ma davvero possiamo essere un paese nel quale ognuno è legittimato a fare ricorsi? Si forma in qualunque parte d'Italia l'associazione per la protezione del fringuello e si bloccano investimenti per centinaia di milioni. Ma lei cosa farebbe? Cioè, limiterebbe per esempio i ricorsi al TAR? E come si potrebbero limitare? Bisogna rivedere la normativa nazionale che legittima i soggetti a ricorrere al TAR. Se non sei uno direttamente interessato, non deve essere consentito un ricorso al TAR. Dobbiamo rivedere in maniera radicale tutto questo, perché noi ci consentiamo ancora dei lussi che non sono più tollerabili in un paese nel quale la gente si spara perché non arriva alla fine del mese. Però io non dico, noi continuiamo a scherzare con il radical chic, con i comitati no qui, no lì, no sopra, no sotto, e l'Italia affonda. Allora, però Vice Ministro, io dico auguri, perché toccare queste, secondo me, toccare questa burocrazia imperante è proprio quello che in Italia non si riesce mai a fare. Beh, ce la metteremo tutta, ovviamente. Io, grazie a Dio, non ho padroni, non devo rispondere a nessuno, tranne che alla mia coscienza, e parto da un'esperienza fatta sul campo, che è quella in un comune importante del sud, nel quale credo abbiamo dato prova di Ma tra poco ci arriviamo a Salerno. Però intanto, sburocratizzare, intanto hanno piazzato il DURT, cioè queste nuove regole del decreto del fare che pare al Senato vengano tolte. Va tolto? Cioè, che cos'è questo DURT? È una roba, è una pazzia oppure è una cosa che è giusta? Documento unico di regolarità tributaria, cioè mi dovrebbe certificare anche qui la posizione dell'impresa, del professionista nei confronti dello Stato per quanto riguarda la propria posizione. Ora, parliamoci con grande chiarezza, noi abbiamo bisogno di decisioni di assoluta eccezionalità in questo momento. E abbiamo bisogno di partire mai come oggi da una posizione di fiducia verso l'impresa e verso i professionisti, perché se continuiamo ad avere la posizione attuale, lo Stato ti considera colpevole preventivo, non innocente preventivo, io credo che non arriveremo mai da nessuna parte. E quindi questo DURT lo togliamo? E per quello che mi riguarda, sì. Lo togliamo. Senta, allora, Vice Ministro, la vuole chiarire questa cosa una volta per tutte? Lei è ancora sindaco di Salerno, perché Delrio e Zanonato, ministri, suoi colleghi, sono dimessi subito dalla Reggio Emilia e Padova e lei invece lì ancora non, non, Non so. Ma intanto perché loro sono ministri e io viceministro, senza ancora le deleghe, vabbè, quindi formalmente ho solo un incarico politico, non un incarico amministrativo. Però c'era una polemica su questo. In tutte queste chiacchiere che ho sentito in questi mesi, nessuno ha capito il problema reale, che è la violazione della legge che prevede l'attribuzione di deleghe al viceministro, altrimenti la funzione rimane politica, quindi il problema, per quello che mi riguarda, non si pone proprio. Dopodiché che Del Rio e gli altri abbiano deciso di accelerare i tempi, buon per loro, avevano voglia di scapparsene dalla loro città, io no. Allora, in questo caso si possono fare due cose, o dai le dimissioni, esatto, e in questo modo si scioglie il consiglio, viene il commissario prefettizio e si paralizza l'attività amministrativa. Io dico di no, per responsabilità ovviamente, oppure ti fai dichiarare decaduto dal consiglio comunale, come hanno fatto loro, credo, come hanno fatto loro, accelerando enormemente i tempi. Io sto seguendo in un quadro di assoluta legalità quello che prescrive la legge, la quale prescrive tre passaggi comunali per la procedura di decadenza. Pur qual è il problema? Quindi se il problema è di rispetto formale della norma, non c'è nessuna eccezione che può essere rivolta. Questo dal punto di vista formale. Dal punto di vista sostanziale, lo Stato mi dovrebbe ringraziare, perché in questo momento continuo a fare a 1.800 euro netti al mese un doppio lavoro al servizio del paese e al servizio della mia comunità. A chi dice che è attaccato alla doppia poltrona, lei che risponde? Dico quello che diceva Seneca, vasa in ania multum strepunt, diciamo, i vasi vuoti fanno molto rumore, c'è gente veramente che non ha niente da fare la mattina. Niente da fare. Senta, anche questo dibattito sul fighettismo del PD rientra un po' nel... No, ha capito, ma ha ragione Enrico Letta a dire basta di fare fighetti, lei almeno questo, al di là del dibattito che è già partito sui giornali, chi sono i fighetti del PD? Ma io credo che questa osservazione sia fondata, perché un conto è fare chiacchiere a ruota libera e fare politica politica, come siamo abituati in Italia, un altro conto è misurarsi con i problemi di un paese e con le questioni drammatiche che riguardano l'economia e la sburocratizzazione dell'Italia. Ovviamente questo non significa che il governo non possa essere oggetto di valutazioni critiche per fare meglio. Io stesso ho valutazioni critiche da fare nel governo, fra le cose che non vanno noi proponiamo all'Italia anche qualche ministro che, per quello che mi riguarda, è il più grande tagliatore di nastri nella storia della Repubblica. A chi si riferisce? Da solo, non vi toglierò il piacere di fare la ricerca. Da soli valgono 10 Totò Cuffaro, da questo punto di vista. Diciamo cioè, in, che questo governo, il tessile. In questo governo. Quindi ci sono sicuramente cose che non vanno, ci sono cose da migliorare, da accelerare, per l'amor di Dio, ma la domanda di fondo a cui non si risponde è sempre la solita: l'alternativa domani a questo governo qual è? Ho capito, perché ma lei neanche a me piace questa maggioranza. Vice ministro, sta dicendo però siedo in un governo nel quale ci sono anche ministri che sono tagliatori di nastri e valgono 10 Totò Cuffaro. Però me lo deve dire chi è, a chi pensa uno. Ma le pare che io di prima mattina le tolgo il piacere di fare questa ricerca? Vabbè, almeno si riferisce a ministri non del suo stesso partito, immagino. Ah no, questo no. Questo no. Noi abbiamo la vocazione all'espiazione, non al propagandismo. A chi si riferirà il vice ministro De Luca? Adesso io non ci dormo questa notte. Comunque, invece i fighetti del PD chi sarebbero, secondo lei? Cioè, a chi si dovesse identificarne uno oggi? Non ho capito, i fighetti del PD. I fighi, ma no? Non lo so, ma insomma lei a prima mattina diciamo mi vuole rovinare la giornata, qui già siamo nati per soffrire. No, ma ce ne sono tanti, ci sono fighetti, ci sono Renzi, parlatori a ruota libera, sfaccendati, c'è di tutto. Diciamo che da questo punto di vista la varietà di umanità che propone il PD è veramente molto ampia. Le chiedo due ultime cose, almeno è contento che Renzi dice non parlo più per un po'? Ma credo che sia utile anche per lui, perché neanche è possibile quando si è impegnati in un'attività di governo avere, come dire, una ripetizione quotidiana di temi critici, di polemiche, non serve né a Renzi, che abbiamo interesse a tutelare come immagine nuova anche del PD, e non serve al governo per lavorare in una condizione di serenità minima. Quindi credo che sia giusta questa scelta di maggiore riserbo, fermo restando ovviamente che se arrivano critiche, polemiche tese a farci lavorare un po' meglio non sono come dire, consentite, ma sono utilissime per migliorare la nostra attività. E l'ultima domanda, sai, di Berlusconi, lei martedì incontra, ci ha detto, le imprese, ma martedì è anche un altro giorno, giorno della sentenza della Cassazione, che in caso di condanna, secondo lei, che può succedere? Il governo rischia? Che succede? Non lo so, questa è un'altra delle vicende demenziali a cui abbiamo assistito in queste settimane. E questo è uno dei punti da chiarire in maniera brutale con i nostri amici e confratelli del PDL, perché io sinceramente comincio a rompermi le scatole a dover sentire ogni mattina la litania sull'IMU, l'IVA e pippe varie, come se qualcuno volesse tenere l'IMU e l'IVA in questo paese alzata, e nessuno dice nel frattempo che i comuni, grazie alla sospensione di IMU-IVA, sono nelle condizioni di non poter chiudere i bilanci. E hanno avuto un altro taglio del 30% delle risorse, il che significa scaricare sui cittadini altri tributi locali, cioè noi continuiamo a prendere in giro l'Italia per fare propaganda politica. Un altro tema di propaganda riguarda la Cassazione. Se la Cassazione dovesse, che succede? Allora la mia risposta agli amici del PDL è che se avete questo in testa, mettetelo in crisi domani mattina il governo, senza aspettare il 30 luglio. Bisogna finirla con questi tentativi di provocazione o di ricatto. La Cassazione è libera di decidere quello che vuole, non sono problemi nostri. La Cassazione sia lasciata in pace. Guardi, e glielo dice uno che credo sia il più garantista nell'ambito del centro-sinistra. Però non è tollerabile utilizzare una sentenza della Cassazione per ricattare un governo o le forze politiche. Basta, facciamola finita. La Cassazione è autonoma e decida in piena libertà. Poi le forze politiche facciano quello che vogliono. E devo dire che il problema in caso di condanna ce l'avremmo più dal mio versante politico, da quello PDL, perché obiettivamente diventa complicata la collaborazione con una forza la cui leadership magari dovesse essere sottoposta ad una condanna definitiva per evasione fiscale o per altro. Comunque, certo. Io credo che siano temi distinti, lasciamo nella sua autonomia la magistratura e continuiamo a lavorare come governo per le cose per cui il governo è nato. Questo sì. Non ho capito però la decadenza quando deciderà lei da sindaco, cioè la procedura adesso prevede qualcosa? Io sto aspettando ancora di sapere quando si rispetterà la legge che prevede le attribuzioni delle deleghe ai viceministri. Che lei non ha ancora avuto. Quindi il primo elemento di violazione di norma e unico elemento di violazione di norma è questo. È quello. Per quello che mi riguarda, la procedura l'ho attivata io per la decadenza mandando due lettere al Consiglio Comunale, dopodiché non è un problema mio, decide il Consiglio Comunale i passaggi previsti dalla legge, quindi siamo nel pieno del rispetto della norma. Sono tre in Consiglio Comunale, li faremo tutti. Se qualcuno poi non dorme la notte perché questo percorso è un po' più lungo, si prenda una camomilla. Va bene, la ringrazio viceministro e sindaco di Salerno per essere stato con noi. Vincenzo De Luca è il sindaco di Salerno, viceministro alle infrastrutture e trasporti del Partito Democratico, e noi tra 4 minuti parliamo di che? Ma di questo, Fassina e l'evasione di sopravvivenza, esiste allora oppure no? 24 mattino. Allora, le 8:35 minuti, ma che ha detto di così clamoroso, secondo voi, Stefano Fassina, viceministro dell'economia, quando dice c'è una evasione da sopravvivenza, cioè ha fatto una fotografia della realtà dicendo ci sono persone che non riescono a dichiarare tutto al fisco, sono evasori di sopravvivenza, cioè lo ribadisce in due interviste, oggi all'Unità, oggi a Repubblica, Stefano Fassina a dire bisogna distinguere, gli evasori non sono tutti uguali, non sono tutti quello yacht eppure dichiarano zero, ci sono anche degli evasori che vorrebbero pagare ma non ce la fanno, ecco gli evasori di sopravvivenza. Apriti cielo, a sinistra si è aperto un dibattito, ha sbagliato, è un errore clamoroso politico, Brunetta che dice bravo Fassina, benvenuto tra noi, la Lega che dice bravo, finalmente lo dice il giornale che titola gli evasori non sono più cattivi secondo il PD, insomma la solita cacciara all'italiana. Io voglio salutare Bruno Tinti, ex magistrato, firma Il Fatto Quotidiano, buongiorno Tinti e bentrovato. Buongiorno. Allora, lei che ne pensa? Fassina ha detto una pazzia oppure che? No, Fassina ha detto assolutamente la verità, nel senso che credo che la situazione di sopravvivenza sia anche molto molto più grande, più diffusa di quello che dice Fassina. Il paese è povero, le persone scendono sotto il livello di vita a cui sono abituati o addirittura scivolano sotto il livello di povertà e quindi evadono. Però è questo il punto che mi sembra non abbia rilevato nessuno. Quando io facevo il magistrato mi capitava spessissimo di processare delle persone che rubavano nei supermercati cosa? Non il make up, non il CD, non la maglietta, i pezzi di formaggio, i pezzi di prosciutto che si portavano a casa. Venivano condannati. Allora il problema è, certamente sì, una grande quantità di persone evade per bisogno, ma è lecito? Si può fare? No, certo che non si può fare, però lo stesso Fassina... Questo però nessuno lo rileva. No, ma lo stesso Fassina non lo giustifica. No, certo, Fassina non lo giustifica, dice bisogna contrastare, cioè non si deve capire, però se uno vuole partire dal contrasto all'evasione fiscale deve intanto capire qual è la situazione e capire, ammettere che ci sono anche persone che fanno fatica a pagare. Magari vorrebbero farlo, ma non ce la fanno. Ma questo non lo nega nessuno. Quando si dice le imprese chiudono e si fanno quei conti, credo un po' esagerati, 20 imprese al giorno, 50 imprese al giorno, io adesso non so, ma è assolutamente vero che moltissime imprese, direi praticamente tutte quelle che chiudono, chiudono per la pressione fiscale. Sì. Perché? Perché in una situazione di crisi con un mercato che non tira, dov'è che si risparmia per prima cosa? Quando gli utili non ci sono più, non si pagano le imposte. Non si pagano le imposte. È la prima cosa da fare. Però, di nuovo, questo non si può fare. No, ma questo certo. Intanto mi faccio salutare anche insieme a Bruno Tinti, Claudio Borghi, economista, editorialista del giornale. Buongiorno Borghi, benvenuto. Buongiorno. Oggi appunto ho citato il giornale, titola così, e ovviamente il giornale ci si butta a pesce. Gli evasori non sono più cattivi, questo è il titolo di prima pagina. Borghi, che ha fatto Fassina? Di certo non si è iscritto nel centrodestra, nonostante qualcuno lo voglia tirare da quella parte, ma ha semplicemente fotografato la realtà, ha detto una banalità, però dice Tinti, però non ha aggiunto che queste persone magari di necessità sono evasori, ma violano la legge, e quindi che bisogna fare suo nostro? Io non posso essere sospettato né di simpatia nei confronti di Fassina, perché penso proprio che nessuno me lo possa scrivere, né di simpatia nei confronti degli evasori. Nella mia vita sono stato sempre lavoratore dipendente, di tasse ne ho pagate tantissime, quindi non sono sospettabile. Però a qualcuno dovrebbe venire un sospetto, vale a dire, nel momento stesso in cui noi diciamo che la gente non ce la fa, però dall'altra parte diciamo che bisogna in ogni caso ovviamente eseguire gli ordini, come correttamente ha detto Tinti, forse qualcuno dovrebbe porsi il problema che gli ordini sono sbagliati. Perché se io dico che tutti devono eseguire gli ordini e ordino a un vecchietto di saltare 2 metri, non è colpa del vecchietto che non salta, ma è colpa dell'ordine che è sbagliato. Beh, ma cosa sta dicendo? Bisognerebbe depenalizzare, per esempio, No, bisognerebbe abbassare le tasse, bisognerebbe fare due cose, abbassare le tasse e dall'altra parte eliminare le tasse non legate al reddito, perché quando Tinti dice che l'impresa non chiude, l'impresa chiude perché ci sono le tasse, dissento, l'impresa chiude per la maggior parte dei casi perché non vende prodotti, perché siamo in una situazione sbagliata economicamente, di questo ne ho parlato tante volte, ma dall'altra parte se le tasse fossero corrette verrebbero pagate sul reddito, se un'impresa non vende non paga neanche tasse, se un'impresa vende paga tasse, quindi non ci sarebbe il caso dell'impresa che non vende e chiude per pagare le tasse. Così come non ci sarebbe il caso del vecchietto o così di questo tipo che non ha redditi, o del licenziato che non ha redditi, sì, e deve pagare tasse. Quindi cosa succede? Succede che se noi abolissimo tasse distorsive come l'IMU, perché è evidente che se io sono licenziato, ho il mutuo, ho la casa e ci devo pagare anche l'IMU, non capisco da che parte li devo tirare fuori questi soldi. Tassa che c'è in molti paesi però, l'IMU. Tassa che c'è. A furia di inseguire le tasse degli altri paesi, anche quando sono sbagliate, abbiamo battuto il record di tassazione mondiale, perché ci manca. Sembrava quelli che facciamo le figurine, ce lo manca. Sì, no? Questa c'è in Svezia. L'IMU c'è in America, certo. E dall'altra parte per l'impresa è l'IRAP. Questo sì, però che... sì, l'abbassare le tasse è una cosa, lo stesso ministro Saccomanni oggi, ieri ha ribadito e oggi su tutti i giornali, abbassare le tasse non si può, quindi si figuri. Ma io contesto questa no, ma chiaro, ma che non si può. Abbiamo visto che alzare le tasse porta diminuzione di gettito, quando abbiamo alzato l'IVA il gettito è diminuito, no? Certo. Allora a un certo punto io devo trovare una copertura per alzarle le tasse. Ma queste sono esattamente filosofie e teorie economiche. Per esempio, una delle teorie, e vorrei su questo capire anche che ne pensa Tinti, io quando l'ho sentita sono uscito pazzo. Tinti, non mi dica che anche lei è della teoria, come dice il premier Enrico Letta, le tasse si possono abbassare se tutti le pagassero, perché in questo stato lei è d'accordo? No, assolutamente no. Lo Stato, se incassa 100, spende 100, se incassasse 150, troverebbero il modo per spendere 150. Sono d'accordo su questo. Vorrei aggiungere che l'evasione fiscale non è fatta tutta dal bisogno, diciamo così. Cioè, gli evasori continuerebbero ad evadere anche se il livello, come diceva Berlusconi, fosse pari al 30%. Vi ricordate che lui diceva sì, se abbiamo una pressione fiscale troppo elevata, evadere le imposte diventa moralmente accettabile. A parte che la cosa non è accettabile come principio, ma gli evasori continuerebbero comunque ad evadere, perché chi evade comunque pensa esclusivamente a se stesso, è un individualista nell'animo e non si preoccupa affatto della collettività. A meno che recupereremmo, Tinti, tutti quelli che, se fosse il 30%, gli evasori di sopravvivenza, quelli che pagherebbero, ce la farebbero per esempio a pagare le tasse se fosse il 30%. Sì. Sono assolutamente d'accordo, solo che abbiamo un problema di fondo che anche di questo credo non si parli quasi mai. Se noi spendiamo circa 1.000 miliardi all'anno per far funzionare lo Stato, da qualche parte questi soldi debbono arrivare. Adesso naturalmente si dice, certamente noi dovremmo spendere di meno e in questo modo potremmo abbassare le imposte, e anche su questo sono d'accordo, però allora l'attenzione preliminare andrebbe su una corretta gestione della cosa pubblica. Spendere di meno e quindi diminuire le tasse, non diminuire le tasse in un contesto in cui siamo sull'orlo della bancarotta, perché questo è inaccettabile. Lo so, però con le tasse alte il rischio è che davvero non aumenti quella soglia di persone che per sopravvivenza non riescono a pagare. Fatemi sentire già il primo ascoltatore, Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Allora, la mia posizione è molto semplice. Sono sbalordito dal fatto che il dibattito sia impostato costantemente in termini sbagliati. Non capisco se per insipienza o per furbizia, ma ci dica lei i termini giusti. No, non sono questioni giuste. Il problema è come i soldi vengono spesi. Le tasse finanziano una spesa. I nostri governi, destra, sinistra, centro, che sono sempre caratterizzati per la loro assoluta incapacità di spendere in modo coerente. Tanto sì, è vero che più aumenta il gettito, più aumenta la spesa. Sì. Ora, e quindi? L'evasore, che socialmente e individualmente è riprovevole, su scala economica sembrerà strano, è quello che consente ancora oggi alla nazione di stare in piedi, perché quello che va nei ristoranti è quello che va nelle seconde case, è quello che compra le macchine, è quello che spende, certo, perché è riuscito a crearsi un reddito disponibile. Secondo il principio pago le tasse perché così funziona l'ospedale, ecco, lui però spenderà nei ristoranti, ma non farà funzionare un ospedale di distinguere, ma così è troppo comodo. L'ospedale, se l'evasore è l'evasore totale, è l'evasore totale. Se è l'evasore che si abbassa la sua aliquota dal 50 al 40, è anche lui in qualche modo un evasore di sopravvivenza. Il problema è che un sistema fiscale equo si autoregola. Sì, sì. Un sistema fiscale folle come il nostro, oltretutto nelle prospettive di chi ci governa, è destinato a essere sempre Alessandro, ma questo che ci sia un sistema fiscale iniquo, lo stesso Fassina, ma non solo lui, è partito proprio da questo principio, per dire, certo, le tasse quando sono al 54%, la pressione fiscale vuol dire che c'è qualcosa che non va, quindi il punto di partenza su questo è lo stesso che fa il vice ministro. Comunque sentiamo il commento di Borghi dopo le informazioni sul traffico. Siamo qui 800 24 00 24. Allora, professor Borghi, ma qui è chiaro che, come ci scrive anche un ascoltatore, dice anche un ascoltatore, l'errore è l'impostazione, bisogna prima abbassare le tasse e magari aumentare le pene poi per chi evade. Lo stesso Fassina, oggi a Repubblica, dice se è tanto alta l'evasione vuol dire che ci sono cause di sistema da risolvere, quindi quando Padoa-Schioppa definiva ladri gli evasori faceva un'assurda generalizzazione. Insomma, Fassina, che sta diventando si sta ravvedendo secondo lei dal suo punto di vista, Borghi, oppure? Mi sa di sì, mi sa che sta cominciando a pensare per motivi suoi, boh, forse di politica interna del partito, di dire la verità, cosa che non va molto di moda di questi tempi. Sì. Ma d'altra parte ci sono delle cose che vanno dette chiare tonde, vale a dire, quando io sento siamo in crisi e quindi non possiamo permetterci di abbassare le tasse, è una sciocchezza, vale a dire è un'euro sciocchezza, perché è proprio quando si è in crisi che vanno abbassate le tasse, proprio quando c'è l'economia che si surriscalda che vanno alzate, si chiamano politiche anticicliche. Se noi quando siamo in crisi alziamo le tasse, oppure quando siamo in crisi abbassiamo la spesa, che tutto sommato dal punto di vista economico funziona così, vale a dire togliere soldi in qualche maniera dal sistema economico, andiamo ancora più in crisi. Era quello che si sapeva sarebbe successo con le politiche di Monti, e quello che puntualmente è successo. Dall'altra parte però il discorso di dire prima vediamo di recuperare l'evasione e poi togliamo le tasse è una bugia, perché è già stato fatto. È evidente che il recupero dell'evasione non è quello della Guardia di Finanza, il recupero dell'evasione è l'incasso fiscale dello Stato a parità di aliquote. Dato che questa cosa è già successa tante volte negli ultimi anni, perché sì, l'evasione si è ridotta, vale a dire depurando i rialzi delle aliquote, l'incasso fiscale dello Stato è molto più alto rispetto a quello che era soltanto 7-8 anni fa. Ebbene, questo aumento dell'incasso fiscale a parità di aliquote, che quindi è recupero dell'evasione, non è mai stato a calo aliquote, sì, è stato usato per fare cose dannose, certo, come i fondi salvastati. Per spendere di più, ma questo è chiaro. Vabbè, non per spendere di più, perché per spendere di più sul territorio comunque italiano non per abbassare, buono anche quello. Non per abbassare la gente, certo, ma non per abbassare l'aliquota, non per abbassare le tasse, questo sicuramente. Prima di tornare da Bruno Tinti, un altro ascoltatore, Ciro da Napoli, buongiorno Ciro. Buongiorno Lino Milano, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Niente, volevo un attimino giusto sintetizzare la mia situazione. Io sono un artigiano nel settore automobilistico e fino all'anno scorso lavoravo come esterno presso un grosso concessionario qui a Napoli, e purtroppo ho avuto la sfortuna di essere di aver revocato il mandato, quindi praticamente io da un fatturato di 3.500-4.000 euro lordi al mese mi ritrovo a fatturare 6-700 euro al mese. Ce la faccio. Io mi sono trovato di fronte a una scelta: mandare avanti la famiglia o insomma continuare a pagare le tasse. Ho scelto praticamente quella di mandare avanti la famiglia praticamente, e mi sono ritrovato indebitato con lo Stato. Cioè che fa? Perché lo dica Ciro, tanto che fa? Fa in nero? Io ritorno in nero, lo voglio denunciare pubblicamente, io ritorno a fare in nero. È perché purtroppo sono costretto, le mie dichiarazioni fino all'anno scorso erano congrue e coerente. Io sono un artigiano, ditta individuale, lavoro da solo, non ho dipendenti, non ho nessuno. Ho mandato avanti dignitosamente la famiglia fino all'anno. L'anno scorso io purtroppo ho fatturato, ho emesso fatture e non ho incassato. Cioè come faccio a pagare IVA, tasse su un fatturato non incassato? No, ma lei è straordinario, lei Ciro ci sta dicendo, io traduco molto in una frase, tra la famiglia e lo Stato io mando avanti la famiglia e per questo devo fare in nero. Stia con noi Ciro, Bruno Tinti, che è Ciro da Napoli? Formalmente è uno che va del fisco se torna al nero, formalmente è una persona da prendere e da condannare. Che facciamo? La prendiamo e la condanniamo? È proprio quello che a mio parere smentisce l'affermazione iniziale del professor Borghi. Non è che chi non guadagna terzo solo non deve pagare le tasse, ma è proprio Ciro. Quando si scende sotto il livello a cui si è abituati da anni, visto che con 700 euro non può vivere, nessuno vuole vivere, lui sceglie di liberare presumibilmente altre 700 non pagando le imposte e facendo nero. Io non posso bisogna distinguere dal punto di vista morale quello economico e quello formalmente legale. Quello formalmente legale è quello che ci interessa di meno. La legge è questa, nessun magistrato potrà dire, anche se alcune sentenze cominciano ad esserci, vista lo stato di necessità portato dalla crisi, eccetera, la eccetera, sopravvivenza, assolviamo. Di fatto non costituente reato perché appunto c'è la scriminante dello stato di necessità. Ma eliminiamo l'aspetto formalmente legale. L'aspetto morale, probabilmente siamo tutti d'accordo, per andare avanti la famiglia da qualche parte taglia sulle imposte. Il problema grosso è il problema economico. È vero che lo Stato spende malissimo, però tra quel malissimo c'è anche il necessario. Voglio dire, tutto deve essere riorganizzato, la sanità deve essere riorganizzata, sì, la viabilità, però non possiamo dire prima di riorganizzare, prima di fargli spendere poco, tagliamogli quello che gli arriva, tagliamogli le entrate perché tanto le spende male. Perché lei dice percentualmente tanto anche con meno entrate continueranno a spendere male con la stessa percentuale e bene con la stessa percentuale. La parte di bene comunque decresce. Io non ho ricette, anzi guardi, vi assicuro che ogni volta che faccio questi discorsi vado in crisi di identità. Poi invece l'aspetto morale mi interessa molto, quindi continuare a dire a gente come Ciro già, però se tu fai male tu devi pagare le imposte, se ti prendono è giusto che ti processano, mi mette a disagio. Però quindi non ho proprio soluzioni, però mi pare che un inizio dovrebbe essere prendersela con quelli che amministrano male lo Stato. Se è vero che il costo della politica, se poi i dati sono quelli continuamente che variano, ma insomma secondo lui la politica ci costa 6 miliardi e mezzo all'anno, che vuol dire, sempre secondo i dati dell'UIL, 210 euro a contribuente, che non è molto, ma insomma. Allora è ovvio che la politica deve conservare una parte di questi costi, no? Però 4 miliardi di euro sono abbastanza, sì, ma uno, il concetto è uno che strumenti ha per fare pressione sulla politica. Io vorrei tornare, Ciro è ancora con noi, lei si è posto il problema di dire che faccio, si è posto il problema di dire ma così torno a fare faccio l'evasore fiscale? Io non mi ritengo evasore. A questa condizione non mi ritengo, non sono nelle possibilità di poter far fronte al pagamento. Quindi lei dice sono nella classica situazione in cui dice il vice ministro Fassina, certo, io per sopravvivere devo fare così. Sì. Allora, mi scusi signor Milan, io sono una persona potente perché non nel senso che mi spiego. Non ho intestato nulla, non ho proprietà, non ho niente. Io se decidessi di non pagare, a me lo Stato non mi fa nulla. Però io, essendo una persona onesta e corretta, io mi sono fatto fare una rateizzazione da Equitalia, però non è corretto che vado a pagare una maggiorazione del 30% su un debito non incassato. Certo. Cioè lei aspetta, cioè, è assurdo. Quanti debiti aspetta ancora di fatture pagate? Saranno sui 5-6 mila euro grosso modo. È lo stesso debito che nei riguardi dello Stato, che però la differenza allo Stato gli devo dare il 30% in più. No, ma è chiaro. No, ma Ciro, è perfettamente chiaro, è una situazione in cui versano moltissimi piccoli imprenditori. Io mi devo fermare, ringrazio lei Ciro Cosmi, come ringrazio gli ospiti Bruno Tinti e il professor Claudio Borghi. Ho 20 secondi per dirvi che da lunedì ci saranno modifiche, non iniziamo più alle 6.30, io sono in ferie, ci saranno colleghi del Sole a fare la rassegna stampa, ci sarà Irene Zerbini a condurre dalle 8 alle 10, insomma il palinsesto estivo, e che dire, io ritorno il 2 settembre. Ringrazio davvero di cuore Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, saranno con noi il 2 settembre, Carmelo Lauricella oggi in regia, vado in vacanza e niente, e ci risentiamo. Ciao!